Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Il mondo delle acque minerali è un mondo di marchi antichi che hanno un sapore antico, di fonti che magari datano 1500-1600. Ed è un mondo che lo si immagina lontano da quello del manifatturiero e dalle ultime tecnologie del manifatturiero di cui ci occupiamo qui. Ma non è sempre così. Tant'è che questa puntata è dedicata a un marchio di acque minerali, Sant'Anna Fonti di Vinadio, che mi interessa per due motivi. Il primo è tecnologico. In questa azienda, fra poco parleremo con il suo amministratore delegato Alberto Bertone, in questa azienda ci sono tecnologie avanzatissime. Ci sono dei robot progettati appositamente che funzionano con la guida laser, ci sono dei sistemi di pallettizzazione che sono molto avanzati e ci sono dei concetti di uso di biopolimeri, bioplastiche per essere compatibili con gli standard di basso consumo e riciclo e circular economy, come si dice adesso, che sono avanzatissimi. Ci sono dei veicoli a guida laser per movimentazione delle merci che vengono visitati e visti anche da altri produttori. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che è un'acqua minerale che è tra le prime in Italia, pure sono nati da 20 anni e hanno triplicato il fatturato negli ultimi 10 anni. Dal 2005 al 2015 sono passati da 100 a 300 milioni di euro di fatturato. Credo che nessun altro sia riuscito a triplicare così. Salutiamo il dottor Alberto Bertone, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma allora, come mai avete triplicato il fatturato? Abbiamo triplicato il fatturato perché abbiamo continuato a investire in questo periodo di crisi in forte in tecnologia e in quantità di impianti di imbottigliamento. E diciamo che non è triplicato il mercato, è stabile il mercato, ma abbiamo cercato di prendere quote di mercato, diciamo, ad altri competitor, e soprattutto abbiamo allargato il mercato, non solo più quello dell'Italia, ma quello all'estero. Quanto esportate in percentuale del fatturato? Noi esportiamo dal 5 al 10%, ma soprattutto abbiamo, oltre l'acqua minerale, abbiamo aumentato la gamma prodotti sia nell'acqua minerale sia nei succhi di frutta. Ecco, e nonostante questa forte crescita avete deciso di continuare a investire, mi diceva di un maxi investimento di 50 milioni di euro in 5 nuove linee di imbottigliamento, portando la capacità totale a 16 linee. Sì, noi la portiamo a 16 linee. Abbiamo fatto questo investimento oltre che per aumentare la capacità produttiva, per migliorare quelli che sono i costi di produzione. Abbiamo diversi brevetti sulle nuove bottiglie dove riusciamo a fare un filetto molto più basso in modo che pesi meno di grammatura. Queste nuove linee riusciranno tutte a produrre con la nuova tecnologia delle bioplastiche compostabili, cioè con la biobottiglia, con la Sant'Anna biobottiglia, questa bottiglia che è fatta di zuccheri vegetali e che non ha più una goccia di petrolio, che dopo averla consumata... Cioè tutte le vostre bottiglie sono fatte così? No, oggi non aveva anche tutta la tecnologia per produrle, e con queste nuove linee saremo in grado, con quasi tutte le linee, a riuscire a produrre questa bottiglia che è compostabile. Una volta consumata lei la butta dove butta la buccia della banana, e viene mangiata dai microrganismi in scarichi industriali dai 15 ai 30 giorni. Quindi attendere, siccome sono 5 linee nuove che porteranno totale a 16, attendere circa il 30% delle bottiglie sarà completamente compostabile. Di molto di più, perché le nuove linee sono le più grosse al mondo, per cui hanno una capacità produttiva oltre il doppio di quelle attuali. Infatti triplicheremo la capacità produttiva. Oltre a quello, anche le linee che abbiamo comprato un po' di anni fa, le altre 5 linee sono in grado di produrre questa biobottiglia. Diciamo che il problema principale è un problema normativo, cioè di queste biobottiglie, che hanno un materiale che è solo vegetale, senza una goccia di petrolio. Ci vuole una normativa in giro per il mondo che in tanti stati è stata applicata, che permette a queste bottiglie di essere competitive con le altre bottiglie di plastica. Ecco, la devo interrompere perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità, ma continuiamo dopo, restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Alberto Bertone, che è l'amministratore delegato di Sant'Anna Fonti di Vinadio, e parlavamo della produzione di biobottiglie che sono interamente compostabili e sono in materiale organico distrutto dai batteri, un po' come i moderni sacchetti della grande distribuzione, no? Sì, diciamo che utilizza un'altra plastica, una plastica che è anche compostabile anche con degli spessori importanti. Cioè, è un materiale diverso, però sempre di origine dalle piante, e ha la caratteristica di essere mangiato dai microbi. Ma chi ve lo fa? Lo fa questo, il polimero viene preso in America da una multinazionale che si chiama? Che fa parte del gruppo Cargill, che ci dà questo polimero, noi da lì facciamo sia la preforma sia la bottiglia. Ma le fate voi le bottiglie o avete un fornitore? Sì. No, facciamo noi sia le preforme che le bottiglie. Beh, anche questo è un aspetto tecnologico importante nella fabbrica, il fatto che le bottiglie le facciate voi. Diciamo perché l'abbiamo fatto per tenerci la tecnologia. La proprietà intellettuale del brevetto. Sì, la tecnologia. Questo tipo di bottiglia è unica al mondo, è una bottiglia che coglie molto un grande successo soprattutto all'estero, dove c'è maggiore attenzione al problema della plastica. Ma in Italia sono già commercializzate queste bottiglie? Sì, sono commercializzate, la difficoltà è sempre la distribuzione di questo tipo. Perché di bottiglia. Perché io non ricordo di averle viste sui supermercati, anche se io non sono uno dei più attenti. Sì. Ci sono in diversi supermercati, ci sono queste biobottiglie e poi soprattutto anche online sui principali siti online. La difficoltà è sempre... Ah, ma quindi le biobottiglie di Sant'Anna io le trovo, non so, ma diciamoli pure i nomi dei supermercati, non abbiamo problemi. La Coop, tutto il gruppo Coop... Le vende... Ha deciso di distribuire queste bottiglie che sono, si chiama, e poi, biobottiglie. E quali altri gruppi le vendono? A differenza le verdi. E poi tanti altri supermercati un po' più piccoli. Contrattualmente ce l'abbiamo con il gruppo Shan, il gruppo Carrefour e tanti altri, il gruppo Gigante. Ah, bene. Che diciamo che hanno questo tipo di bottiglie. A volte però non... è difficile la distribuzione perché ogni supermercato ha certe dimensioni e a volte hanno già la nostra Sant'Anna di plastica. Io volevo parlare anche dell'aspetto delle tecnologie. Com'è che sono questi nuovi veicoli a guida laser per la movimentazione della merci e l'automatizzazione del magazzino? Diciamo che 15 anni fa abbiamo intrapreso con questo imprenditore italiano, che è un genio riconosciuto in tutto il mondo. Che si chiama Enrico Grassi dell'Elettrica 80. Sì, dell'Elettrica 80. Loro erano, diciamo, un'azienda che stava partendo, aveva questa idea di fare questo tipo di macchinari. Noi abbiamo finanziato e sponsorizzato e collaborato a fare questi tipi di laser. Sembrava una cosa incredibile. Ma ci spieghi come funzionano e a cosa servono? Sì, le spiego. Non è altro che quello che Google adesso sta cercando di fare con quella macchina, che usa anche lei delle guide laser, e noi lo facciamo all'interno di uno stabilimento dove così lui si organizza la produzione, portano i tappi, non so, tutti i materiali alla produzione, scaricano le linee, decidono loro quando caricarsi, togliersi la batteria. Con i nuovi carrelli non c'è neanche bisogno di cambiare la batteria, perché hanno dei biberonaggi, dei punti di prelievo dell'energia, loro si appoggiano quando non hanno da fare, si prendono quei 2-3 minuti di energia e vanno avanti per ore, e per cui non ha una postazione fissa fisica di cambio di energia. E loro caricano anche il camion all'interno del camion, vanno magazzino, sovrappongono, preparano gli ordini, fanno le bolle, fanno tutto. Ecco, loro. L'aspetto interessante del vostro modello produttivo, è che voi, essendo giovani, avete potuto inventarvi da zero e anche sviluppare subito le tecnologie più innovative e avete coinvolto dei fornitori partecipando ai costi di sviluppo. Ci spieghi un po' siete partiti con questo modello? Noi siamo nati da zero e siamo nati fondando l'Acqua Sant'Anna, non c'era uno stabilimento precedente. E per cui noi eravamo dal settore delle costruzioni, per cui eravamo completamente ignoranti del settore dell'acqua minerale, e l'abbiamo interpretato in modo completamente diverso. Cioè non l'abbiamo interpretato come si faceva già prima, lo faccio meglio. L'abbiamo interpretato non sapendo, non avendo mai visitato uno stabilimento, abbiamo cercato di immaginare come pensavamo che si facesse così lo stabilimento, invece ce ne siamo accorti dopo di averlo fatto completamente diverso, e per cui abbiamo sviluppato queste tecnologie non con quelli che erano nel settore dell'acqua minerale, ma con persone, con imprenditori bravi che volevano sviluppare qualche cosa in un altro settore, e l'abbiamo sviluppato in modo completamente diverso, e per cui abbiamo fatto i macchinari più tecnologici o diversi rispetto al mercato dell'acqua minerale. Un altro macchinario sono questi robot pallettizzatori che vi lasciano anche, sono fatti in modo da risparmiare notevoli quantità di plastica. Sì, diciamo che ci sono i palettizzatori che abbiamo cercato di simulare quello che fa una mano, sono dei robot antropomorfi che si sviluppano come... E questi, scusi, chi gliel'ha costruiti? Questi ce l'hanno costruiti, ci sono diverse aziende che fanno questi tipi di mani che si adattano a questi robot. Ma ci può fare qualche nome? Uno è sempre l'Electric 80, l'altro è la Bema. Altro è la Hocme, che sono aziende che sono quasi tutte aziende italiane. Queste sono quasi tutte italiane, ma noi nell'imbottigliamento con la Simonazzi eravamo leader mondiale nell'imbottigliamento. Poi negli anni 90, 80, 90, così, queste sempre acquisizioni da parte di grossi gruppi multinazionali ci hanno comprato tutte le migliori aziende. Ma sì, perché in Italia, e qui bisogna aprire una parentesi per dire che in Italia c'è un saper fare meccanico che fa sì che noi siamo, ad esempio, io l'ho ricordato in altre puntate, il terzo paese al mondo per la produzione di robot. Forse è una cosa che in qualche modo ricorda anche la nostra tradizione nell'artigianato, la nostra tradizione nell'artigianato di elevatissima qualità ci ha reso anche tra i primi al mondo nella meccanica e quindi nella robotica, e si possono vedere queste applicazioni. Ma torniamo a Sant'Anna. Allora, robot che hanno delle mani antropomorfe. Noi abbiamo la testa come italiani, abbiamo la testa dura, e quando gli altri dicono che non si può fare, noi diciamo si può fare. Certo. E quando andiamo a vedere queste fiere in giro per l'Italia, le tecniche migliori arrivano sempre da aziende italiane, a volte anche piccole, però con una dinamicità che è pazzesca. Ma voi quanti dipendenti avete? Abbiamo 150 persone che lavorano e più, diciamo, 200-300 persone che tra venditori e cooperative di pulizie e via dicendo. Ecco, ma dei 150 dipendenti diretti interni, quanti sono laureati? Allora, noi stiamo cercando di portare anche a laurearsi tanti nostri dipendenti. Questo è bello. Sì, abbiamo proprio, io cerco sempre di spingere a tutte le persone che sono a studiare e aiutare a studiare i nostri dipendenti. Tante persone si sono laureate con noi dopo aver smesso di studiare. Diciamo che in questo momento stiamo assumendo tanti laureati e tanta gente che ha fatto il master. Diciamo che in produzione almeno il 10% sono laureati? Ma quelli che sono nelle vendite e nella cosa sono tantissimi, sono più della maggioranza, perché sono nuovi assunti e li prendiamo da questi, dal Politecnico e da un po' in giro per l'Italia. In produzione è difficile, in alta montagna, trovare... Ah certo, perché va detto, Sant'Anna Fonti di Vinadio è nel comune di Valle di Stu... A Vinadio, provincia di Cuneo, Valle di Stura, è il posto più a ovest d'Italia, altissima montagna. Sì. Tra l'altro voi avete uno stabilimento in legno e pietra, costruito secondo i principi della bioarchitettura, e dove voi per raccogliere l'acqua avete fatto 400 km di tubature. Sì, nel frattempo ne stiamo facendo altri 200, stiamo arrivando a 600, diciamo che oggi sono posati 600 km di tubatura che confluiscono, prendono l'acqua da più vallate, perché oltre a Sant'Anna facciamo anche altre sorgenti, e confluiscono in un unico stabilimento. Abbiamo concentrato in un unico stabilimento diciamo l'arrivo di più acque. Okay. E questo ci permette proprio di lavorare sempre su tre turni, compreso sabato e domenica, e quindi di avere una produzione che non si interrompe mai. Purtroppo io parlerei ancora con lei per ore, ma il tempo a nostra disposizione è tiranno, la devo interrompere qui, ma mi è piaciuta moltissimo questa testimonianza, perché vuol dire alta tecnologia e automazione anche in settori nei quali verrebbe difficile pensarla spontaneamente. Grazie dottor Bertone, dobbiamo salutare i nostri ascoltatori. Grazie. Arrivederci alla prossima puntata sabato prossimo ore 14.